Io mi sono rotto, sto rompendo le scatole. Instagram mi ha bannato il profilo. Basta, veramente mi sono sciocciato. Uno deve avere il diritto di avere un profilo e non è corretto nei miei confronti. A me mi ha bannato perché io avevo un sacco di profili falsi e Instagram non li banna. Perché sto proprio arrabbiando. Io mi sono rotto.